si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Di Alessio Maurizi. Buona domenica, ben ritrovati cari ascoltatori. Si può fare il nostro spazio settimanale su Radio 24, dove cerchiamo di invertire il trend della settimana, il trend delle cattive notizie. Cerchiamo e raccontiamo piccole storie virtuose, insomma, di italiani che ce la fanno, si rimboccano le maniche e ci portano qualche buon messaggio da raccontare. Noi aspettiamo tra l'altro il vostro intervento in diretta 800 24 00 24 per raccontare le vostre storie e commentare quelle che invece vi proponiamo noi anche sul profilo Facebook Si può fare trattino Radio 24. E oggi vogliamo parlare tra l'altro con voi del futuro della nostra università e della nostra cara lingua italiana, perché il progetto del Politecnico di Torino è quello di internazionalizzare l'università, renderla un centro d'eccellenza, parlando però e facendo corsi solo in inglese. 800 24 00 24. Le notizie di questa settimana in apertura del programma, come sempre, sono dedicate invece questa settimana alla giornata internazionale della Terra, giunta alla 42esima edizione, 175 paesi coinvolti. Vogliamo così dare qualche piccola segnalazione, per esempio che cosa si fa per questa giornata della Terra concretamente. AMREF interviene per portare l'acqua pulita in Kenya e in Tanzania, dunque sosteniamo AMREF, oppure Cingei e Hervey Italia organizzano dal 22 aprile al 21 giugno una campagna volontaria di ripristino di diverse aree verdi su tutto il territorio nazionale, cui si affiancherà un concorso fotografico. E poi c'è anche l'iniziativa Adotta un animale, una campagna di raccolta fondi in favore delle specie protette che sono ospitate nel Bioparco di Roma della capitale. Dunque, queste alcune notizie della settimana. Lo ripeto, aspettiamo le vostre segnalazioni anche alla nostra mail Si può fare @radio24.it. Non dimenticate la segreteria telefonica e il nostro concorso Salvare l'Italia in un minuto. Una ricetta banale, ma già collaudata altrove, e che non capisco la ragione per cui in Italia non vogliono seguirla. Lo scontrino o la ricevuta a fronte di qualsivoglia prestazione, dal bar, dal caffè o dal lavoro di ristrutturazione, scaricabili dalle tasse. Lo fanno in America e non capisco perché i nostri politici si ostinino a dire che è un'operazione difficile e quantomeno poco redditizia. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Bomba da bocca picchita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto luna, bomba da bene in cave di I love you. Fa l'americano. Fa l'americano. Si sa che noi italiani siamo sempre un po' tentati di fare gli americani. Adesso però al Politecnico di Torino saranno costretti a farlo davvero gli studenti dell'Ateneo, perché dal 2014 niente più italiano, si parlerà solo inglese. La notizia da cui partiamo questa settimana è questa. La notizia è che il secondo biennio finale e i dottorati del Politecnico di Torino si svolgeranno tutti in inglese. Secondo noi questa è una buona notizia, perché insomma studiare in inglese vuol dire prima di tutto favorire l'arrivo di studenti stranieri e quindi attirare eccellenze in Italia, ma soprattutto preparare gli studenti italiani al futuro mondo del lavoro, un mondo sempre più globalizzato dove l'inglese è naturalmente insomma centrale. Uscendo dai corsi del Politecnico i ragazzi saranno pronti per qualunque posto di lavoro nel mondo. A me questa sembra una notizia straordinaria, però quando abbiamo messo questa notizia sul profilo Facebook del programma abbiamo avuto anche dei commenti preoccupati. Ma come? l'italiano dove va a finire? Che fine fanno le nostre radici? Allora vi chiediamo proprio questo, cari ascoltatori, oggi 800 24 0024, secondo voi questa è o non è una buona notizia? Ma naturalmente per commentarla abbiamo chiesto l'aiuto di John Peter Sloan. Buongiorno John. Hi, come stai? Hi, il nostro insegnante d'inglese preferito, naturalmente. John. Oh, thank you. Non vorrai fare tutta l'intervista in inglese, però, perché io non è che me la cavi benissimo, eh. Ok, dai, lo facciamo in italiano. Un po'. Senti, John, prima di tutto vorrei chiederti questo. Ti stupisce questa notizia, cioè il fatto che noi italiani, che come tu racconti benissimo, insomma, con l'inglese spesso abbiamo delle difficoltà, con la lingua straniera in generale, con l'inglese in particolare, ci siamo buttati in questo progetto, ripeto, al Politecnico di Torino, tutto sarà fatto in inglese. Non te l'aspettavi una cosa del genere da noi? Ma io in realtà non è la prima volta che sento questo tipo di iniziativa. Lo so che anche nella scuola normali c'erano anche chi spingeva per avere diverse materie insegnate in inglese. Qualsiasi cosa che fanno in inglese io ovviamente lo spingo, come tu hai detto prima. Certo. Adesso ci sono 2 milioni, cioè tutti parlano di crisi, ma ci sono 2 milioni di posti di lavoro in Europa per chi ha una conoscenza dell'inglese. Quindi io negli ultimi mesi sto girando tutta l'Italia, soprattutto in meridione, cercando di fare arrivare questo messaggio importantissimo che l'inglese è il futuro, soprattutto nel lavoro. L'Italia sempre rimane indietro, cominciano anche troppo tardi qua, a differenza dei paesi nordici. Sì, ci sono paesi dove quindi si inizia proprio a 3 o 4 anni forse a tre studiare. Anni in Olanda ci sono i bambini davanti alla televisione in inglese, è normale che poi... Però sai che gli italiani anche sono molto bravi, per quanto li amo, hanno tante scuse, no? Per esempio loro dicono, vabbè, i tedeschi parlano molto meglio l'inglese perché il tedesco è più vicino all'inglese, che non è assolutamente vero, è soltanto che comunque capiscono l'importanza, è sempre più importante. Un'altra cosa che sento ultimamente ma la lingua del futuro è cinese, cioè addirittura. Aspettiamo un attimo, magari. Com'è? No, dico, aspettiamo un attimo. No, ma ci sono tanti miei amici insegnanti inglesi che lavorano adesso a Shanghai, perché la realtà è che i cinesi stanno imparando l'inglese. Ecco, ogni scusa è buona per non imparare l'inglese, perché ricordiamo John Peter Sloan, attore comico e da un po' di tempo anche e soprattutto ormai insegnante di inglese in Italia, anche in veste semiufficiale, insomma, te ne sei occupato da un po' di tempo, John. Quali sono i difetti principali degli italiani parlando inglese? Raccontaci qualche aneddoto. A me per esempio piaceva quello della H, di quella tua studentessa che voleva insegnare, odiava il suo insegnante, ma finiva per mangiarselo, no? Com'era? Sì, perché ok, ma questi sono delle come si dice? Tra poco parliamo anche di pronuncia, però prima di tutto volevo dire che i difetti per me non sono quelli italiani, e prima di tutto è nell'insegnamento. Io ho creato il corso mio proprio perché come insegnante mi serviva un corso per italiani, mentre qua usano delle cose che non vanno bene per loro, cioè, quindi ci voleva un corso per italiani e loro problemi. Sulla pronuncia ci sono certe cose che ovviamente ho creato una serie di suoni per aiutare sulla pronuncia, per esempio l'uomo morente, che è uno che è molto popolare, che è, l'H, per esempio l'uomo morente è, perché io immagino un uomo che sta male, fa sì. Questo allora questo suono è fondamentale in inglese, no? Sì. Per esempio imparare learn giovedì Thursday, quindi con questi trucchi anche simpatici riescono a fare la pronuncia bene. Perché non lo faccio io perché non vorrei mettere a repentaglio, così nauseando tutti gli ascoltatori. Comunque adesso ce ne racconti qualcun'altra, facciamo una piccola pausa per il traffico e poi ancora qualche così difetto di pronuncia degli italiani che si esibiscono con l'inglese. E lo ripetiamo, la notizia è questa: saranno costretti a farlo sempre di più gli studenti del Politecnico di Torino, perché dal 2014 si parlerà solo inglese. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Umma ta bocca picchita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, comma da bene in cave di I love you. Fa l'americano. In compagnia di John Peter Sloan questa mattina, attore comico, insegnante d'inglese, ci vuoi regalare ancora qualcuno dei tuoi consigli così per migliorare la pronuncia nostra dell'inglese, John? Sì, anche se la pronuncia secondo me non è la cosa più importante, sì. E nemmeno, anzi, la cosa più, nemmeno la grammatica è la cosa più importante. La cosa più importante è di comunicare, però il problema italiano è che proprio che c'è un blocco psicologico, la maggior parte non si buttano, quindi il mio consiglio oltre la pronuncia è di buttarsi, lasciarsi andare, di non avere paura assolutamente di sbagliare prima di tutto. E questo è proprio un blocco mentale, sì. E poi per la pronuncia le cose pericolose, tipo non pronunciare il U come un A, perché in Italia hanno questa tendenza di pronunciare l'U inglese come un A. Per esempio, per dire funny, dicono funny, che vuol dire farfalina, e questo può essere molto imbarazzante. Dire lenzuola e foglia, dicono sempre, cioè, la foglia si dice sheet, lungo, e spiaggia si dice beach, perché se lo dici troppo corto questi sono pericolosi, no? La prima sì, shit, che sarebbe cacca, e l'altra invece beach. No, lenzuola, allora tu immagina, perché lenzuola sì. È sheet, lungo, sì. No? Non è shit. E spiaggia e beach, perché una volta uno studente veramente ha detto ho messo la lenzuola sulla spiaggia, ma puoi immaginare cosa aveva detto. Ha messo qualcos'altro, certo. Ecco, quindi queste sono le cose che sono importanti, però l'accento italiano è bello, cioè non dico mai che un italiano dovrebbe parlare come un inglese, anzi per me insomma abbiamo la nostra manteniamo la nostra poesia se vogliamo anche con gli nostri errori. Voglio chiudere con te, John, chiedendoti una cosa, perché tra chi ha espresso qualche perplessità su questo passaggio all'inglese nell'Università di Torino c'è l'Accademia della Crusca, che si occupa così di mantenere, studiare e mantenere l'importanza, la centralità della lingua italiana. Ma al di là di un'opinione su questo, esiste qualcosa di simile in Inghilterra, cioè un'istituzione che si occupa della lingua inglese, oppure è una cosa proprio italiana questa? No, in Inghilterra, anzi in Gran Bretagna, c'è per esempio in Galles institutions che combattono per tenere il gallese in scuola, come uguale anche in Irlanda, che loro proteggono la loro lingua. Però secondo me la realtà è che purtroppo italiano è una lingua favolosa. È una tragedia che si parla solo in italiano, però in realtà italiano fuori dall'Italia è abbastanza inutile, no? Certo, questo è secondo me il punto centrale di questa vicenda, perché chi dice insomma così perdiamo le nostre radici, non è vero, perdiamo l'italiano, no, perché quando si arriva all'università l'italiano già lo si conosce. Certo, bisogna rendersi conto che l'italiano non è centrale nel mondo del lavoro internazionale, insomma nel mondo, e quindi questo è sicuramente un passo così per uscire dal nostro guscio di provincialismo. Io ringrazio John Peter Sloan per essere stato con noi, il nostro insegnante d'inglese preferito. Grazie per quello che ci hai raccontato. Questa dunque è la notizia: inglese al Politecnico di Torino dal 2014, niente più italiano. 800 24 0024. Cari ascoltatori, vogliamo sentire la vostra opinione su questo. Proprio così, come nella canzone, con le loro mani un gruppo di cittadini milanesi amanti del verde pubblico hanno riaperto un piccolo giardinetto nel centro della città, una storia di permessi, autorizzazioni, ricorsi, insistenze da parte di questo gruppo autocreatosi Giardini in Transito, che ha preso appunto in mano la situazione, riuscendo a sottrarre al degrado questo fazzolettino di terra che si trova, per chi conosce Milano, tra la zona Sarpi e i bastioni di Porta Volta. racconta una storia piccola, una storia locale, ma esemplare, sia di come si può recuperare un pezzettino di città, sia anche proprio della voglia dei cittadini di farlo. Ne parliamo con Camilla Peluso, che nella vita è responsabile dei progetti della piccola scuola di circo di Milano, ma che in queste vesti è presidente dell'associazione Giardini in Transito. Camilla, buongiorno. Ciao. Eccoci qua. Allora, ieri avete fatto l'inaugurazione di questo spazio verde, no? Sì, era proprio ieri. C'è stato il taglio del nastro con l'assessore Castellano, Lucia Castellano, che è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano. Prima di raccontarci la storia appunto di questa vicenda, che anche questa è importante, esemplare, com'è andata la giornata, la festa? C'era molta gente? Tantissima gente, un evento molto molto partecipato, tantissimi bambini tutti impegnati nelle diverse proposte del pomeriggio, come dire, della festa. Poi ci racconterai anche quali sono le iniziative, le idee che avete per valorizzare questo spazio. Una storia che è esemplare perché insomma, voi ci avete messo anni, perché sembra una sciocchezza, un pezzettino di terra di quanti metri quadrati? 2000 metri quadri. Quindi se 2000 sembra tanto, ma poi visto da vicino sicuramente è un fazzoletto. Però ci avete messo anni perché insomma combattere contro l'inefficienza della pubblica amministrazione e le risorse, le difficoltà che ci sono. Raccontaci però in un minuto un po' i passaggi salienti di questa storia. Quest'area, come dire, è stata identificata nel lontanissimo 1998 dalla piccola scuola di circo, che poi ha stipulato una convenzione, ha installato la struttura che è il piccolo circo di Milano in quest'area. Noi abbiamo occupato l'area per circa 7 anni, nel frattempo è nato un contenzioso nei confronti del Comune di Milano che vuole tuttora realizzare un parcheggio multipiano, e quindi la scuola di circo è stata dislocata in un'altra area e l'area invece di Via Montello, questo piccolo fazzoletto di terra verde, è stata abbandonata a se stessa per un paio d'anni. Io ovviamente lì, insieme a tutti i miei amici della scuola di circo, ho lasciato un pezzettino di cuore e, impietosita, vedendo la situazione di degrado che man mano prendeva piede, ho cercato di coinvolgere il consiglio di zona, il consiglio comunale, gli assessori, eccetera. È stato un lavoro lunghissimo, anche perché vabbè, sapete tutti che a Milano c'è stato un cambio di giunta, quindi come dire, un'interlocuzione con una giunta precedente e una giunta successiva. Però insomma, poi alla fine ci siete riusciti. L'abbiamo fatta. Sì. Chiariamo subito che insomma l'associazione Giardini in Transito, voi cittadini, non è che avete intenzione di fare delle cose vostre private su questo pezzo di terra. No, si tratta di aprirlo, e questo è il senso che volete dare, di aprirlo al quartiere e fare delle cose. Per esempio ieri c'era un'iniziativa che riguardava l'AMSA per la raccolta dei rifiuti, ci saranno cose per i bambini. Raccontaci, Camilla. Chiaramente l'iniziativa nasce come primo esperimento ufficiale, mi viene da dire, di giardino comunitario, quindi di giardino partecipato, un modo nuovo dei cittadini di viversi il verde urbano. E l'esperimento è veramente un esperimento, nel senso che a Milano tutti quanti sanno, i giardini sono i parchi, i giardini pubblici, eccetera. Non c'è un discorso di verde dato in mano al privato sociale. Quindi diciamo, l'associazione è un'associazione di promozione sociale e il progetto finale è quello proprio di riuscire a creare un giardino di quartiere partecipato dalle persone del quartiere, e quindi stiamo cercando, come dire, di fare rete, di coinvolgere persone, perché abbiamo aperto questi orti urbani, quindi ci sono nonni che vengono a zappare la terra, bambini che vengono a piantumare i fiori. Ieri abbiamo creato una aiuola fiorita grazie a dai partner di progetto, proprio AMSA uno di questo, e poi altri che ci hanno regalato degli arredi per il giardino, piuttosto che i fiori e gli ortaggi da trapiantare, eccetera. Quindi ieri c'è stata una grande festa che ha coinvolto, secondo me, almeno 500 persone, nel senso che il giardino è stato aperto dalle 2 alle 7 di sera, c'è stato un grande avvicendamento di persone, di famiglie, di persone anziane che venivano, chiedevano, e essenzialmente l'aria che si respirava era proprio quella del finalmente abbiamo recuperato uno spazio. Finalmente si può uscire di casa, si si può partecipare, si può stare in compagnia in uno spazio verde, ed è, io credo, davvero una bella storia, perché insomma credo che a Milano, ma anche in altre città, ci sia davvero bisogno di iniziative come questa, e speriamo che Giardini in Transito e la storia che vi abbiamo raccontato possa servire d'esempio anche ad altri per fare delle cose simili, no Camilla? Speriamo. Sì, a livello amministrativo qui a Milano si stanno muovendo tante cose, nel senso che comunque l'amministrazione è decisamente attenta, come dire, a questa richiesta che proviene dal basso. Diciamo che siamo ancora un po' lontani da un procedimento amministrativo che possa ideare una convenzione ad hoc per situazioni di questo tipo, ma comunque a Milano ci sono già tante associazioni o comitati anche di, e speriamo, ripeto, di persone che si occupano di verde pubblico, speriamo, in maniera, Camilla, di privato sociale. Dobbiamo chiudere, speriamo che la vostra iniziativa serva invece anche proprio a creare delle forme così giuridiche, forse anche, non lo so, per iniziative come questa. Quello che conta poi è la finalità. Si può fare cronache da un paese migliore. 12:36 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Oggi abbiamo chiesto il vostro intervento, il vostro soccorso all'800240024 sul tema della prima notizia, cioè corsi di universitari solo in lingua inglese al Politecnico di Torino dal 2014. È una buona notizia secondo noi? Sì, perché è una forma di internazionalizzazione del Politecnico che guarda al futuro. Però sentiamo cosa ne pensate voi ascoltatori. Patrizia da Firenze, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo intervenire perché sì. Non sono d'accordo, cioè sono assolutamente d'accordo sul fatto che specialmente nelle università dove si insegnano materie scientifiche sia utilissimo diciamo l'apprendimento di queste materie con i testi in lingua inglese, penso che sia importante. Però? Però non sono d'accordo su quanto diceva l'insegnante. Ora, purtroppo mi dispiace, sono arrivata alla radio quando già... Non importa, ragion Peter Sloan, non importa, cosa voleva dire? La cosa è questa, questo insegnante ha detto che ci sono un sacco di posti di lavoro per le persone che conoscono bene la lingua inglese. Sì. Allora, io ho avuto un'esperienza, vi assicuro, terrificante, perché sono rimasta in Inghilterra parecchi anni, ho lavorato là, a Cambridge ho conseguito il Proficiency, il Cambridge Certificate of Proficiency. Sì, però non ci racconti la storia della sua vita, cosa voleva dire? No, assolutamente, sì. Però voglio dirvi, il problema mio è questo. Non ha trovato lavoro. Arrivata in Italia, io non ho trovato un lavoro che mi permettesse di impiegare la conoscenza dell'inglese che avevo acquisito. Ho fatto tutt'altro e addirittura nessuno sapeva che cosa fosse il Proficiency qui. E ho ancora capito. Adesso vabbè, bisogna vedere anche con chi parlava lei, perché bisogna vedere quali erano gli interlocutori, perché il Proficiency, come dice giustamente lei, è un insomma un documento, un certificato, un diploma inglese. Magari l'interlocutore che le faceva il colloquio chi era, scusi, per che lavori si proponeva lei? Ma guardi, io mi sono proposta in tante in tante situazioni, adesso sono abbastanza anziana, quindi non Vabbè. È che ricordi bene. Comunque è chiaro che l'inglese è una condizione sicuramente, come dire, necessaria ma non sufficiente, serve anche altro. Grazie a questa ascoltatrice. Giorgio da Milano in 30 secondi, perché poi abbiamo un altro ospite. Che ne pensa lei? Ha chiamato sì, per guardi, questo, allora, sì. Guardi, io invece sono assolutamente a favore di questa iniziativa del Politecnico. Io penso che sia fondamentale, non importante, fondamentale che l'università italiana faccia questo. Io ho lavorato 10 anni all'estero, ho conosciuto tanti ragazzi italiani che si sono affermati all'estero e poi anche sono tornati in Italia, hanno continuato a lavorare grazie alla loro capacità di comunicare in inglese, oltre alle loro capacità ovviamente professionali. In un paese votato all'export, qual è il nostro, è necessario, è essenziale che l'italiano che lavori con l'estero riesca a comunicare, perché se comunica bene vende meglio, produce meglio e ha anche una gratificazione personale. Grazie Giorgio, grazie per questo suo intervento di incoraggiamento. 800 24 00 24, tra poco magari qualche altro intervento. Put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out, who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Eccoci qua, il cane è il protagonista della nostra prossima storia, perché da un po' di settimane al Politecnico dell'Università Federico II di Napoli gli animali, i cani in particolare, ci danno una mano la danno in particolare invece proprio ai bambini ricoverati, perché dopo una serie di progetti e sperimentazioni con dati incoraggianti alle spalle, i medici del Politecnico e volontari dell'Associazione Italiana Terapia e Attività con gli Animali propongono ogni martedì una cura particolare. Non è una vera e propria pet therapy con i bambini, ma ci si avvicina abbastanza. Ne parliamo con la dottoressa Amelia Stinchi. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Prima di tutto, che ci racconta cose positive in Italia. Ne abbiamo bisogno, vero? Allora, la dottoressa è direttrice della AITACA, che non so se si pronuncia così, l'Associazione Italiana... AITACA, scusi, certo, è ovvio, l'accento è quello. L'Associazione Italiana Terapia e Attività con gli Animali. Sì. So che lei ci deve distinguere che questa non è una iniziativa proprio di pet therapy in senso stretto. Sì. Allora, ci racconti però che cosa fate esattamente con i bambini e con i cagnolini nell'ospedale? Esatto. Dal 2007 il professor Luigi Greco, direttore del Dipartimento di Pediatria dell'Università Federico II di Napoli, ci ha autorizzato, perché essendo un sostenitore della pet therapy, ad andare con un piccolo cagnolino ogni martedì dalle 15 alle 17 nella ludoteca del reparto. Noi che cosa facciamo? Prima di tutto, lei si immagini un bambino che vede un cagnolino in un ospedale, quindi già la sorpresa di vederci arrivare è tantissima. Poi, dopo le presentazioni, i nomi dei bambini, spieghiamo il cagnolino, come si avvicina e tutto quello che può essere una fase preliminare, i bambini interagiscono con il cane con dei piccoli giochi, cioè il cane segue dei comandi, loro gli lanciano la pallina e il cane gliela riporta, nascondiamo delle cose e il cane le deve cercare. Tutto questo provoca nei bambini un grande divertimento, come le potete immaginare. E poi alla fine di ogni incontro regaliamo ad ogni bambino che ha partecipato all'incontro una fotografia con il cane. Questo che effetto ha sul bambino? Che si rivedrà in un momento piacevole anche durante un'esperienza completamente negativa, quale può essere stato un ricovero. Senta, c'è più convinzione rispetto al passato su quello che si può ottenere con terapie come queste con gli animali? Poi so che lei ha fatto sperimentazioni anche sulle malattie vere e proprie. Sperimentazioni proprio, sono sì. Progetti, sì. Perché in effetti che cosa noi abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei progetti su malati cronici, perché attraverso appunto gli animali e in particolare il cane, noi cerchiamo di migliorare per questi malati cronici il sentimento di autostima e di autoefficacia. In pratica, chi è affetto da una malattia cronica logicamente si sente diverso dagli altri, soprattutto i bambini vengono tenuti molto più chiusi, gli viene impedito tanti tipi di attività, e noi attraverso questo tipo di pet therapy, in questo caso i progetti di pet therapy, cerchiamo di far migliorare questi contesti psicologici. In effetti, che cosa facciamo? Prepariamo dei percorsi ad ostacoli che il paziente, bambino, adulto, adolescente, deve seguire facendoli fare al cane. È logico che questa cosa, che riesce sempre perché i cani sono opportunamente addestrati, provoca in chi le segue un grande sentimento di soddisfazione. Sì. E quindi alla fine loro si sentono gratificati da questo tipo di attività. È vero, dottoressa, che... Sì, prego, voleva finire. No, voglio dire... Questo è il punto, sì. È la relazione con l'animale, in più dà un feedback soltanto positivo, perché l'animale non lo può curare, non lo giudica, non sa della sua malattia, gli dà un feedback positivo perché lo riconosce, lo festeggia, lo coccola e poi esegue quello che lui gli dice di fare. È vero che ogni animale ha un po' le sue potenzialità, cioè che insomma diversi tipi di disturbi della personalità o comunque insomma di terapie si possono fare, non so, lei ha parlato del cane, ma c'è cioè il gatto, il coniglio. Sì, certo. Allora, ci racconti un po'? Sì. Io parlo per l'esperienza personale. Ci sono degli studi che parlano di ipoterapia, che sicuramente è una cosa che funziona molto bene in alcuni tipi di patologie. Ci sono esperienze che parlano addirittura con i leoni marini. Io credo che qualsiasi cosa dia un beneficio, in qualsiasi modo si raggiunga, vada bene. non posso parlare direttamente per esperienza personale, perché io la mia esperienza è limitata alla pet therapy con i cani, e quindi però ci sono moltissimi progetti nel mondo attualmente che utilizzano anche altri animali domestici e altri animali non domestici, tipo i delfini per l'autismo, tipo gli asini. Insomma, verrebbe la voglia di dire chi più ne ha più ne aggiunga. E staremo, no, però non bisogna metterli tutti, perché poi ci sono più storie. Certo. Noi abbiamo parlato in particolare per quello che riguarda i vostri progetti dell'impiego del cane. Grazie alla dottoressa Stinchi, questo è quello che succede in alcuni ospedali di Napoli e della Campania. Insomma, staremo a vedere. Intanto però abbiamo parlato della giornata della terra, e collegata a questo c'è stata la settimana internazionale del pannolino. Sembra una sciocchezza, ma non lo è. Sulla questione della crescita, per crescere di più, per stimolare la crescita, nuove occasioni di crescita, la crescita. Siamo ossessionati dalla crescita economica, eppure per vivere bene non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. Lo si guarda tappandosi il naso. È la disperazione della metà delle famiglie italiane. È pieno di cacca. No, non parliamo del Parlamento, ma del pannolino. I pannolini rappresentano il 10% di tutti i rifiuti urbani, contaminano il terreno e le falde acquifere e impiegano 500 anni per decomporsi. Parlare di pannolini lavabili può suscitare dell'ilarità. In Italia ci sono circa 1 milione di bambini. Se calcoliamo che ogni bambino fa 6 cambi al giorno, ogni giorno noi buttiamo in discarica 6 milioni di pannolini. Possiamo calcolare mediamente un peso di 0,5 chilo, sono 3.000 tonnellate al giorno di pannolini usa e getta che vanno in discarica. Il problema non è solo la quantità, ma è la qualità, nel senso che il pannolino usa e getta va nel secco, quindi danno grossi problemi anche in discarica di percolato e di biogas. Un'altra motivazione molto forte al giorno d'oggi è il risparmio. Se noi calcoliamo nell'arco dei 3 anni, un bambino ci fa spendere più o meno, dipende dalle offerte, dipende dalle marche e quant'altro, 1.500 euro di pannolini usa e getta. Bene, con i pannolini lavabili spendiamo mediamente dai 300 a massimo 700 euro. Quindi il risparmio è di mediamente 1.000 euro. I pannolini usa e getta vengono prodotti con sostanze chimiche che creano dei grossi problemi alla pelle del bambino, in quanto appunto delicata, provocando allergie, dermatiti e quant'altro. Il pannolino lavabile è normalmente in cotone organico e non crea questi problemi. L'utilizzo è molto semplice, non c'è più da lavare a mano, quindi basta metterli in lavatrice e farli asciugare. C'è una comoda velina, raccoglie feci, che separa le feci e smaltisce correttamente nel WC, e quindi anche lì abbiamo un corretto smaltimento e oltretutto il pannolino non viene sporcato. Due siti di riferimento su cui informarvi: vi consiglio www.nonsolociripa oppure pannolinilavabili.it. Avete sentito Pannolini Lavabili? È la decrescita felice e si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, sentiamo ancora un vostro intervento all'800 24 00 24. Oggi siamo partiti dalla notizia addio italiano al Politecnico di Torino dal 2014. Vi abbiamo chiesto se era una buona notizia secondo voi. Abbiamo Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, ho chiamato per questo? Sì, ho chiamato per questo. Secondo me è proprio una sciocchezza quella di introdurre in una scuola italiana l'obbligo di parlare solo ed esclusivamente inglese. Perché? Tante volte. Perché è una sciocchezza? Anche parlando con delle persone laureate si sbaglia, si sente che sbagliano nel declamare congiuntivi e condizionali. Ah, lei dice già non sanno l'italiano. È poco curata la grammatica nella scuola italiana. Marco, mi scusi però, ma quando si arriva all'università a 21 anni l'italiano lo si deve già sapere, non è che si impara andando al Politecnico. Ma si insegna prima anche. Allora però è un'altra cosa. Allora però secondo me è un'altra cosa. Grazie Marco, andiamo un po' di fretta perché abbiamo ancora un'altra ospite. È un'altra cosa secondo me perché l'italiano si impara alle elementari, alle medie, e quando uno arriva a 22 anni al Politecnico o in qualunque altra università lo sa già, oppure se non lo sa non lo imparerà certo studiando ingegneria delle costruzioni in italiano o in inglese. Abbiamo adesso un altro ospite che vogliamo introdurre così. Sì signor, sì signor, somos la revolución, viva la revolución. Es que hasta los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo practicando más costado del bienestar. Non abbiamo ospite un giovane dei centri sociali, ma una signora di Bolzano che si chiama Serenella Margotti, che nella vita fa la geometra e adesso ha aperto una libreria. Buongiorno Serenella. Buongiorno. La notizia è questa, insomma ogni città ha i suoi resistenti, gente che resiste un po' a tutto, no? All'isolamento delle metropoli, alla crisi che taglia le gambe, ma anche a chi vuol rompere le regole della democrazia, se vogliamo metterla in alto. Il Festival delle Resistenze a Bolzano, anche quest'anno in scena dal 25 aprile al 1 maggio, e la signora Serenella insieme alla sua amica Barbara è una delle testimonial di chi insomma la volontà di mettercela, la volontà di farcela ce la mette e riesce nella sua impresa. Lei contro ogni aspettativa, insieme alla sua amica, contro ogni logica forse, ha fatto quello che il contrario di quello che succede. Tutti chiudono i negozi, le librerie, piccole librerie in particolare. Invece voi, giunte a un'età matura dal punto di vista della carriera e del lavoro, avete invertito la rotta e avete aperto una libreria che è inaugurata quando, tra l'altro? È stata inaugurata sabato scorso. In mezzo a grandi clamori, perché siete tra l'altro in un quartiere popolare della vostra città dove di librerie non ce n'erano. No, non solo. Diciamo che a livello generale nessuno dava fiducia a questa impresa. Anche il giornale locale l'ha definita un azzardo, una cosa eccezionale, aprire una libreria in un quartiere popolare come Don Bosco. Invece noi l'abbiamo proprio scelto, è stata una scelta mirata, cioè, proprio perché il quartiere popolare è un quartiere estremamente abitato, il più abitato della città, che mai nella storia della città aveva avuto una libreria, e non solo una libreria, perché la nostra non è solo una libreria. Ecco, tra l'altro lei mi diceva il particolare interessante, la notizia della notizia, l'Italia come paese unito. Voi avete trovato l'ispirazione andando, almeno lei in particolare, a Napoli, certo, dove ha visto molti caffè letterali e ha detto perché non portarlo anche a Bolzano? Esattamente. Diciamo che a Napoli ci vado almeno 20 anni, quasi tutti i mesi, perché è una città che adoro. Pur non avendo nessun tipo di origine familiare, però è una città che proprio mi coinvolge moltissimo. E lì da sempre ci sono questi caffè letterari, e in particolare c'è una piazza intera dedicata a questi locali. E sono veramente interessanti, sono carini, perché riescono ad aggregare parecchie tipologie di persone, ecco, non solo una certa categoria. Quindi, ed è stata, diciamo, il spunto iniziale. Diciamo che lo spunto iniziale veramente è nato quando la mia amica, appunto, che lavorava già in una libreria, è stata licenziata perché la libreria ha chiuso. E voi avete deciso di aprirne un'altra, perché lei collaborava con questa sua amica. Purtroppo non c'è tempo per raccontarla tutta e bene questa storia, ma io mi riprometto invece di risentire Serenella, perché voglio sentire come andrà la vostra impresa di questa libreria un po' controcorrente, di questo caffè letterario a Bolzano. Serenella tornerà a nostra ospite più avanti. Certo, perché dobbiamo monitorare se dopo tutto questo entusiasmo riuscirete comunque a farcela. Io ringrazio Gian Gabriele Lombardo e Valeria Bernardi in regia quest'oggi. Da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ad una buona settimana.